Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Che in fondo la Sardegna era lì davanti a noi. Sulle cartine viste a scuola era proprio vicinissima. Mattina presto, mare calmo, condizioni climatiche perfette. Mettiamo il canottino in acqua e io, da vecchio lupo di mare, avevo deciso che era giunta l'ora di partire. Mi chiamo Andrea, il mio cognome è Piselli, vivo ad Amelia in provincia di Terni, sono un libero professionista. Andrea, per aver dovuto dire tra il nome e il cognome, il mio cognome è Piselli, guarda Andrea, non voglio immaginare l'ironia spiccia e anche, devo dire, abbastanza bassa che sia stata fatta sul tuo cognome. Ne parliamo dopo al telefono con Andrea. Parliamo invece della storia di Andrea, perché è vero quello che dice Andrea anche nell'intro, che da bambini, di solito da bambini tutto sembra più grande, no? Cioè, quando ricordiamo, quando torniamo in un posto in cui siamo stati solo quando avevamo 10 anni, ci sembra più piccolo di come ce lo ricordavamo. Però da bambini le mappe sembrano piccolissime. Per cui se uno guarda lo spazio di mare che c'è su una mappa tra la Sardegna e la costa italiana, insomma la costa ovest della penisola, da bambino dice vabbè, guarda, è un attimo, quanto saranno, non so, un quarto d'ora, 20 minuti di remata a dir tanto, e si mette in testa di fare cose come quella che ha fatto Andrea e che a breve vi racconterò. Si parla di grandi traversate avventurose oggi, qualsiasi sia stato il mezzo con cui l'avete fatto, un canotto come nel suo caso. Il titolo di questa storia è divertentissimo, si intitola Il canottino. Quando l'abbiamo letta io e Bonini ci siamo chiamati, abbiamo riso per un quarto d'ora raccontandoci aneddoti tratti da questa storia. Che sia stato un canotto, che sia stata una zattera, un gommone o un pedalò, oggi parliamo di quello, delle piccole grandi attraversate della vostra vita, di quando eravate ragazzini. Poi se l'avete fatto invece da adulti va bene comunque, 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24. Il profilo Twitter invece è Voi siete qui R24. Ce l'ho, profilo Twitter, perché siccome il mio è facilissimo, è Matteo Caccia, allora ogni volta dico sarà facile uguale. Voi siete qui R24, il profilo Twitter del programma, dove Margherita Ina ovviamente twitta come una dannata, è già sudata come pochi nonostante l'aria frizzante di questo settembre milanese. 349-238-6666. Le storie che sono arrivate sul profilo Facebook sono, diciamo, già in clima grande traversata. Francesca: traghetto per macchine sul fiume San Lorenzo in Canada. Non ci sono in Italia, ce ne sono se ci sono pochissimi, questi traghettini che ti portano, forse sul Po, mi immagino, traghettini che ti portano l'automobile proprio, per quanto piccoli, da una sponda all'altra. Invece mi immagino il fiume San Lorenzo in Canada. Avevo 10 anni, pensavo mamma e papà mi stessero prendendo in giro. Secondo me la mia piccola esperienza europea non poteva essere un fiume, perché non si vedeva l'altra sponda. E poi ancora Fabio: la mia più emozionante traversata l'ho fatta all'età di 5 anni. Ricordo appena la zattera costruita con le basi di legno per il trasporto delle merci, cioè i bancali. Mi imbarcai e, su spinta di mio fratello e mio cugino, percorsi quella traversata di 5 metri nella grande pozzanghera d'acqua che si era formata nella discesa del garage della casa dopo un forte acquazzone. 349-238-6666. Grandi traversate. Nella seconda parte avremo ospite una persona al telefono, purtroppo, non dal vivo. Una persona che fa altro nella vita, sostanzialmente fa il comico, cioè fa ridere le persone, ma che ha questo obiettivo. Ogni anno si pone un grande obiettivo. Il suo grande obiettivo di quest'anno e del prossimo e fare una grande traversata. Ne parleremo con lui. Non è Alex Bellini, non perché non faccia ridere Alex Bellini, ma perché poi Alex Bellini le traversate le fa e come. L'ultimo messaggio che al momento vince è quello di Mastro Cartapestaio. Vabbè, sarà chiaramente il nome di Facebook, e dice così: sono ormai passati un po' di anni, la panzetta è cresciuta, ma chi se la dimenticherà mai quella pedalota di 74 miglia con mia sorella Sabrina attraverso l'Adriatico. Ho fatto qualche ricerca, non si trova moltissimo, ma la pedalota traversata dell'Adriatico in pedalò da Punte Bianche a Palombina Nuova, Ancona, era dal 18 al 21 giugno del 2008. Grande festa all'arrivo al Dona Flor di Palombina Nuova, Ancona. Me lo immagino, i due che col pedalò arrivano al Dona Flor. Chissà se esiste ancora il Dona Flor, anche se non so cosa sia. 349-238-6666. Siamo in diretta dalla sede di Radio 24, qui nella splendida sera del Sole 24 Ore. Sono le 16:12. Adesso mettetevi comodi, immaginate di essere al mare, di essere ancora ancora al mare, se ci siete meglio per voi. Fa caldo e voi siete pronti con il vostro canottino. Estate 1974. Nel mondo usciva l'album It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. In Italia Sanremo lo vinceva Iva Zanicchi con la canzone Ciao cara come stai, sparita dai ricordi musicali di ognuno di noi, ma per fortuna, seppure nell'indifferenza generale, usciva sempre in Italia Ingresso libero di Rino Gaetano. Io ero un bambino all'epoca, avevo 8 anni. I Rolling Stones li avrei scoperti più tardi. In quel periodo, come ogni estate, si andava al mare con tutta la famiglia allargata, coi cugini e con gli zii. Un bel periodo che ricordo ancora con grande gioia. Quell'anno la scelta era caduta sul litorale di Albinia, rigorosamente in campeggio, che per un bambino rappresenta senz'altro un grande divertimento. Le giornate erano tutte uguali, all'apparenza monotone. Mattina in spiaggia, pranzo più o meno al sacco, pennica rigorosa fino alle 4, che nei campeggi vige la regola del silenzio pomeridiano e non so come, ma tutti la rispettano. E poi di nuovo in spiaggia, e infine cena, tutti insieme. Un giorno di quelli, io e mio cugino Marco, più piccolo di me di 3 anni, aveva quindi 5 anni, eravamo in spiaggia e quell'anno, siccome eravamo ormai grandi, i nostri genitori ci avevano messo a disposizione un piccolo canotto con il quale movimentare le giornate. Dopo le prove iniziali ed ormai certi della nostra acquisita conoscenza del mare, delle sue correnti, dei suoi venti, delle sue alte e basse maree, ci sentivamo pronti per la grande avventura. Un paio d'anni prima, sempre con tutte le famiglie, eravamo stati in vacanza in Sardegna e per noi era stata una vacanza indimenticabile. Quindi, perché non tornare là con il nostro canottino? In fondo la Sardegna era lì davanti a noi, sulle cartine viste a scuola, era proprio vicinissima, assicurava Marco. Mattina presto, mare calmo, condizioni climatiche perfette. Io, da vecchio lupo di mare, avevo deciso che era giunta l'ora di partire. Mamma, papà, noi andiamo a fare un giretto col canottino. Va bene, mi raccomando, non allontanatevi. Noi? No, guarda, arriviamo in Sardegna e torniamo per pranzo. Sì, bravi ma puntuali, per l'una a casa e non fate tardi, se no son botte. Partendo verso le 9 della mattina, pensavamo di stare in Sardegna per l'ora di pranzo, ma a quell'età, da bambini, non portavamo né cibo né acqua, proprio così, insomma, che è poi rilevato, insomma, una illusione. Loro pensavano che noi scherzassimo. Questi genitori sono tutti uguali, in tutte le epoche, si fanno sempre abbindolare dai bambini. Comunque, canotti in acqua, remi in spalla, una spinta e poi via, tutti dentro, direzione sud-ovest. Remo un po' io, remo un po' Marco e zitti zitti il litorale si era veramente allontanato. Non distinguevamo più le persone che stavano in quella triste spiaggia di Albinia senza sapere che noi ormai eravamo pronti per gli stupendi scogli della Sardegna. Intanto però il caldo aumentava, il sole picchiava veramente, la corrente al largo aveva cambiato direzione. Remare era diventato faticoso e ci sembrava di stare fermi lì. Io studio un attimo la situazione e decido di cambiare rotta. Senti Marco, facciamo così. Direzione nord, paralleli alla spiaggia, puntiamo all'isola d'Elba. Da lì la Corsica è un tiro di schioppo. Poi magari anche a piedi raggiungiamo la Sardegna. A scuola mi piaceva la geografia e ora questa mia passione mi tornava veramente utile. Marco, dall'alto della sua grande esperienza di mare, come conoscenze scolastiche era decisamente più indietro di me, fa 2 conti e approva la nuova rotta. E allora via, direzione nord. La velocità aumenta decisamente, remare diventa un piacere, mentre vedevamo scorrere in lontananza la spiaggia. E cammina, cammina, anzi rema, rema, arriviamo alla fine dell'insenatura in cui era posto il nostro campeggio. Certo, non era l'isola d'Elba, né tantomeno la Corsica o ancor meno la Sardegna, ma per noi era veramente una conquista. Ci sentivamo come naufraghi che dopo non so quanto tempo vedevano la terra. Quindi ormai affamati ed anche decisamente stanchi, decidiamo di tornare indietro e di lasciare la conquista della Sardegna a quando saremo più grandi, magari con un mezzo nautico più importante di quel misero metro, metro e mezzo massimo di canottino. Dreaming better, dreaming better, better ways to go. To say goodbye, well, there's some give up your shit, make me wanna cry. Just know that every time I look in your eye, I see better, yeah, I see better, better days. Da capitano della nave do quindi l'ordine di invertire la rotta. 2 manovre veloce e via, direzione sud. Verso finalmente il guadagnato pranzo, vista anche la mancanza di cibo e soprattutto di acqua, errore che due vecchi lupi di mare come noi non dovevano commettere. Ma dall'alto dei nostri 13 anni in due ci perdonammo da soli. Purtroppo però qualcosa non andava. Troppa fatica. I nostri sforzi ai remi non corrispondevano affatto alla distanza percorsa in acqua. La corrente, che prima c'era a favore, ora era decisamente contro. Consiglio di bordo e tutto l'equipaggio approva a maggioranza assoluta lo sbarco a terra. Da lì, canotto in spalla, avremmo raggiunto a piedi il nostro campeggio e soprattutto il nostro pranzo. Ecco, ora si viaggiava decisamente meglio. E in breve tempo raggiungiamo la spiaggia e sbarchiamo in una zona a noi completamente sconosciuta, la famosa ed esclusiva Corte dei Butteri. I bagnanti locali ci sembravano molto diversi rispetto a quelli della nostra zona. Ci guardavano in maniera strana. Per loro eravamo due extraterrestri appena sbarcati sulla Terra, mentre per noi erano loro gli extraterrestri che avevano appena occupato il nostro pianeta. Soltanto ora, a distanza di 40 anni, capisco cosa abbiano provato quei bagnanti a vedere due bambini sconosciuti approdare sulla spiaggia con quel ridicolo canotto. Ma questo noi all'epoca non potevamo capirlo. E quindi, sguardo dritto, canotto in spalla, siamo subito partiti per i nostri lidi. Da bambino non ero semplice, ero abbastanza agitato e oltre a questo del canottino ne ho combinate altre. Il ritorno a piedi si è subito rivelato molto piacevole. Notavamo però che la spiaggia si andava svuotando e i bagnanti rimasti erano tutti presi a mangiare. Quindi era ormai chiaro che l'una era passata e il nostro pranzo si stava freddando. Non vedevamo l'ora di arrivare e raccontare ai nostri genitori di quella grande avventura, di quanto eravamo stati bravi a seguire le maree, poi ad abbandonarle quando ci erano contro. Ci sentivamo proprio fieri di noi e della nostra avventura. Abbiamo camminato molto, eravamo partiti da un pezzo e anche giudicando dalla fame si era fatto veramente tardi. Avvicinandoci notiamo che si era formato un gruppetto di gente, tra cui alcuni sconosciuti, intorno alla zona occupata proprio dalle nostre famiglie. Avvicinandoci ancora di più ci accorgiamo che c'era una certa animazione. Molte persone stavano guardando verso il mare con le mani sulla fronte per ripararsi dalla luce. Qualcuno scrutava l'orizzonte anche con il binocolo, cercando evidentemente qualcosa o qualcuno. A quel punto ci siamo cominciati a preoccupare anche noi. Abbiamo fatto gli ultimi metri di corsa e raggiunto subito i nostri genitori. Mamma, mamma, cos'è successo? Ecco, ricordo, prima ci fu un leggero spostamento d'aria. Poi, nel giro di un nanosecondo, ciaff! Altro spostamento d'aria e ciaff! Sequestro immediato del canottino e subito a casa, anzi in tenda senza pranzo, senza merenda e, anche se ormai era quasi ora, senza cena. Il gruppetto di gente cominciava a disperdersi. Ci guardiamo con Marco e capiamo finalmente che cosa era successo. Eppure, nonostante tutto, noi tutt'oggi, quando con Marco ripensiamo a questo episodio, non pensiamo di averla fatta così grossa. Ci è venuto tutto naturale. Bambini, sì, ma mica così stupidi da andare al largo e di farci veramente trascinare dalla corrente chissà dove. Remare lungo la spiaggia ci è sembrato naturale, poi perché tornare controcorrente quando due passi non hanno mai fatto male a nessuno? Ormai adolescenti, anni dopo, non paghi dell'episodio sopra raccontato, ci siamo imbattuti in un'altra avventura di mare. Questa volta però i nostri genitori, anche ricordandosi l'esperienza precedente, non si sono minimamente preoccupati. Hanno chiamato il bagnino, il quale, munito di barca a motore, ci è venuto a recuperare prima che dalle coste della Puglia, a bordo di un windsurf, arrivassimo in Albania. E c'è anche la zia che rimane a guardare mentre noi ci tuffiamo nel mare, perché lei dice che oggi il bagno non lo può fare. E nella testa c'è la rima micidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare. Tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, ad affogarci nel mare. Tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, ad affogare quei parenti. Che poi magari uno non lo fa, non è che si fa quella traversata. Però tutti hanno, diciamo, l'idea di fare una grande avventura da ragazzini. Alcuni, come Andrea, lo fanno, altri no. Vi ricordo che tutti i brani che mandiamo in onda li trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, voi siete qui. Sono i brani che sceglie Tiziano, sono 3 al giorno. Potete cliccarci sopra e vi rimanda direttamente al link di YouTube. 349-238-6666, barca di legno a Imbersago, attraversata ecologica, mi scrive qualcuno. E poi mi scrive Tommaso. Sono Tommaso, ho 11 anni. Il mio sogno era... quindi prima degli 11 anni, andare dall'isola di Lavezzi alla Maddalena in canotto. Fortuna che qualcuno te lo ha impedito. 349-238-6666, ma soprattutto al telefono Andrea. Pronto? Pronto? Ciao Andrea. Ciao Matteo, come stai? Bene, tu come stai? Bene, grazie. Andrea di cognome Piselli, giusto? Piselli, sì, è la seconda volta che ti sentiamo. È la seconda? Ma infatti la tua voce non mi risultava nuova. Raccontami l'altra storia che mi hai raccontato. Era quella di Pinocchio. Del provino di Pinocchio. Certo, certo. Infatti ho visto che mandavi un messaggio. Un messaggio che diceva che Amelia si scrive senza la lieu, sì, giusto? Sì, non sì. So dov'è che l'hai letto Amelia con la lieu? Sul sito? Sì, sul vostro sito. Adesso lo facciamo correggere immediatamente. Ti ringrazio. Torniamo a quei giorni, Andrea. Sì. Nel senso che tu ci hai messo veramente poco a capire che era una traversata da nulla, giusto? Hai detto sulla cartina è tanto così. Ci sembrava quasi fattibile all'epoca. Fino a qui ci sono, nel senso che l'avete anche fatta. Raccontami com'è andata poi il resto della vacanza. Il canottino è stato sequestrato per tutto il tempo oppure ve l'hanno restituito? Adesso ora non ricordo, però l'avevamo fatta grossa, insomma. La paura era stata tanta per i nostri genitori. E sto windsurf invece? Era un'altra storia simile, sempre. Anzi, permettimi di salutare Marco, mio cugino, che sicuramente sta... Come no? Ciao Marco, dov'è Marco? Cosa fa? Lui sarà sicuramente a Terni in giro per lavoro. Ok, perché ricordiamo che siete umbri, giusto? Sì, sì, umbri. Siete di quella parte. Scusa, ma perché ce l'hai tanto con Albinia? Ma non è che ce l'ho con Albinia, anzi ci vado spesso, tuttora. Rispetto alla Sardegna è senz'altro... Ok, diciamo, nei tuoi ricordi di bambino, quell'estate in Sardegna era stata un po' più... Sì, quella era stata... Un po' più colorata, diciamo, sì, un po' certo. Più vivace. Come... Ok. Questa è il windsurf, però mi piacerebbe che me la raccontassi, perché sempre voi due eravate. Sì, sempre noi due, con questo inferno, ma quella volta eravamo partiti forse anche peggio. Uno eravamo più grandi, quindi anche più consapevoli, però non è stato sufficiente. Tu adesso fai attività nautiche di qualche tipo, Andrea? No, no. Niente? Niente. Non hai patenti nautiche? No. E dimmi invece se hai ancora questo spirito d'avventura, se hai delle... Sì, sì, per certi versi, sì. Beh. Ho cambiato genere, ma... Tipo? Su che genere sei passato? Adesso, per esempio, giro molto in motocicletta. Sì? Faccio quando posso, viaggio in moto. Dove vai? Quest'anno sono stato in Corsica, a aprile con tre amici. E giro in senso orario o antiorario? Non ho mai capito se la Corsica la si deve girare in senso orario o antiorario. Allora, questo è un dilemma. È un argomento questo, vero? Non si sa mai, però noi l'abbiamo fatto in senso antiorario. Abbiamo fatto subito il famoso dito della Corsica, che sì. È la punta nord estrema, e poi abbiamo continuato a girare in senso antiorario. Ma perché si fa in senso antiorario? Perché è più sicuro? Perché antiorario sei sempre esposto verso il mare. Ah, quindi è meno sicuro in teoria, ok, però è più panoramico. Come si chiama? Panoramico, ma le strade in Corsica a volte sono abbastanza bruttine, senza parapetto, senza niente. Sì, sì, io l'ho fatto invece in senso orario, esattamente dall'altra parte, partendo da Bastia, andando giù e poi tornando su. Come si chiama quel pezzo di deserto? C'è un... Non si chiama? Non c'è un pezzo tutto deserto rosso, una roba del genere? Non te lo ricordi? Vabbè, chiunque lo sappia, chiunque conosca la Corsica, 349-238-6666. Andrea, ti ringrazio per la seconda storia che ci hai mandato. Ringrazio a te. Alla prossima avventura. Ci vediamo, ciao, bene. Ciao, grazie, ciao Andrea. Ciao Matteo, ciao. Mi piace salutare gli ascoltatori con un ci vediamo. Ci vedremo mai, però un po' così nell'immagine, nella nostra testa. No, Andrea lo vediamo tra breve nella foto che vi racconto di lui. Voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui. Andrea ha una faccia nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, sempre quello, radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui. Ha una faccia, non tutti ce l'hanno, non tutti, da cui puoi immaginare com'era quando era bambino. Cioè riesci a immaginartelo proprio. A 8 anni, epoca del racconto, della storia, del canottino, era praticamente così, ma con la faccia di 8 anni. E non so spiegarvela diversamente di così. Andate a vedere la sua foto, perché primo è proprio così, cioè sembra un bambino cresciuto. Ma poi perché Andrea ricorda in maniera abbastanza eclatante quell'attore che per ultima cosa, come suggeriva Margherita Hina, ha fatto L'usciere di Forum, ma per tutti noi era il ragazzo della terza C, quello coi capelli rossi, e lui si chiamava Fabrizio Bracconieri. Abbiamo fatto gli ultimi metri di corsa e raggiunto subito i nostri genitori. Mamma, Mamma, che è successo? Prima c'è stato un leggero spostamento d'aria, poi nel giro di un nanosecondo, ciaf, ciaf, altro spostamento d'aria e ciaf, ciaf. Il grande teatro radiofonico, grazie ad Alessandra De Luca e alle sue interpretazioni delle storie che arrivano, anche se di brevi stralci, comunque molto significative. E si chiama Désert des Agriettes. Non so se l'ho letto bene, comunque quel pezzo di deserto della Corsica che è tutto rosso, in italiano delle agriette, qualcuno mi scrive. Al momento in realtà diciamo che c'è qualcuno che forse batte il pedalò. Samuel mi scrive: ho attraversato il Brahmaputra nell'alto Assam, India, caricando la jeep su uno zatterone. Un'ora di traversata perché non era la stagione delle piogge. Questo significa che se fosse stata la stagione delle piogge erano 8 ore attraversate. Non avrei mai creduto che fosse possibile, e un po' di timore c'era, lo ammetto. Poi ho visto un altro zatterone che portava un camion carico e la cosa mi ha preso decisamente meglio. Cioè, tipo che l'ha preso bene. Vale anche preso meglio. Cioè che uno che è preso male all'inizio viene preso bene dopo, quindi mi ha preso meglio. Come va? Ma sì, sono abbastanza preso meglio. 349-238-6666. Di notte in una canoa scavata a mano che faceva acqua in più punti attraverso lo Zambesi, pullulante di coccodrilli, ippopotami e chissà cosa. Mozambico, Francesco da Trento. E poi ancora attraversata claustrofobica dentro una stiva buia e senza blò di un carro armato anfibio. Marcello da Bergamo. Veniamo invece alle storie, perdonatemi, le traversate che sono state fatte, ma soprattutto quelle a venire. C'è, ve lo annunciavo prima, questa persona che in realtà è un personaggio e non lo nascondiamo, è un amico, dopo lo dichiareremo, che nella vita fa una cosa, che è far ridere le persone, ma come obiettivo in realtà ha altro. Ada! Ada! Ada! Mio marito è un pezzo di merda. Veramente. Ada, dove sei? È un incapace, non sa fare niente. Io ho paura che non muore perché non ci riesce. Ada, ma qua stai? Ma puoi dire sto qua? Ma se non ci riesce lui, gli do una mano io. Non ce la faccio più. Ma che stai parlando? No. Come no? Ma mi sembra sta parlando. Insomma, li avete visti, sono in due, sono Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, li avete visti dappertutto, più o meno in televisione, fanno ridere, ma Corrado ha un altro obiettivo nella vita. Pronto Corrado? Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, tutto bene. Allora Corrado, dicevo prima, non facciamo mistero del fatto che ci conosciamo e siamo amici, altrimenti io non potrei conoscere questi tuoi slanci, giusto? Perché sono abbastanza privati, insomma, forse è la prima volta che li rendi pubblici. Sì, sì, in realtà non ne ho mai parlato se non con gli amici appunto a cena, perché però ho questo impulso che non riesco a contenere da anni e di fare viaggi inutili, insomma. Viaggi inutili e per certi versi anche pericolosi, nel senso che al momento Maria è riuscita a fermarti in questa traversata, ma ce l'hai in mente per l'anno prossimo. Però facciamo un passo indietro. La prima cosa che hai fatto è stata l'estate scorsa, che se vuoi, insomma, può sembrare poco avventuroso, in realtà per uno che non ha mai preso una moto lo è, no? Cosa hai fatto, sì, esattamente? Allora, ho preso una moto che non sapevo guidare, non so guidare le moto, cioè non ne avevo mai guidata una, e avevo preso un patentino, ma diciamo è solo fatto l'8, quella guida semplicissima, e poi non avevo più toccato un mezzo, e ho comprato una moto a Verona. E di che cilindrata, Corrado? 900. Benissimo, per partire facile. 900, oltretutto era molto interessante quando andavo a cercare le moto, che io dicevo: guarda, mi serve una moto per fare questo viaggio, che poi appunto dirò, e tutti si rifiutavano di vendermela. Perché il viaggio era? Dopo aver saputo che non sapevo guidare. Il viaggio era Milano, Salento, tutto fuori autostrada. Perché? Allora, diciamo, di fatto Milano-Salento non è casuale, perché è un ritorno a casa per te, perché tu sei salentino, giusto? Sei, sì, pugliese. Vabbè, io sono come lo storione, certo. Tendi a tornare verso casa, giustamente. Tu, quanto è durato sto viaggio? Che poi l'hai fatto, sei arrivato, sereno, tranquillo. L'ho fatto, no, sereno è una parola grossa, però okay. L'ho fatto grazie a un amico che è motociclista e che si è appassionato alla mia storia, appunto, e ha deciso di fare il viaggio con me, quindi lui andava avanti, ma avanti di tanto, perché insomma io rimanevo tanto indietro, e però sono riuscito a farlo. Ho avuto paura sul passo della Futa, perché ho scoperto che non sapevo fare le curve. In che senso non sapevi fare le curve, scusami? No, nel senso proprio non le sapevo fare, nel senso non avevo capito che la moto è una cosa pesante e che bisogna, cioè l'ho capito strada facendo e quindi ho imparato guidando appunto, però il primo pezzo della puta è veramente complicatissimo e ho scoperto che sulla sinistra, cioè quando giro sulla sinistra in discesa vado in panico. Va bene, ok, questo magari ne parli col tuo analista di questa cosa, è più una cosa psicologica. A tal punto che sono stato battezzato appunto da questo mio amico con un nome che a me è sembrato bellissimo, a metà strada si è fermato, ha alzato il casco e mi ha detto: bene, tu da motociclista hai questo nome, lo squalo. Perché? Ah, io ero felicissimo perché ho detto che è una cosa bellissima, certo. E invece lo squalo, perché come la pinna e lo squalo io in curva non piegavo mai. Benissimo, però Corrado Nuzzo, questa primavera più o meno, cos'era l'inizio primavera, una sera a cena esce con questo annuncio che: ragazzi, ho deciso, prendo una barca e da qualsiasi posto dell'Italia e la porto in Puglia. Sì, perché questa cosa di fare il viaggio appunto Milano-Salento mi ha appassionato all'idea di farlo in tutti i modi possibili. Certo, ok. Quindi dopo la motocicletta, una barca. L'idea però che ha Corrado Nuzzo è quella di prendere una barca, non ho ancora capito bene se a motore, a vela, a remi. No, vela. Ah, vela, ok. Una barca a vela e andare ipoteticamente dall'Adriatico, giusto Nuzzo? Sì, io pensavo del posto che non so, Lignano Sabbiadoro oppure Lido di Jesolo. Ma perché? Un po' perché vedendo gli annunci ho trovato. Ok, semplicemente perché le barche erano là. Perché l'idea quindi è comprare una barca usata, raggiungere il Salento, senza però avere non solo la patente nautica, ma non avere idea di che cosa sia una barca a vela. Sì, questo è importante. Allora, questo è importante, viaggio, è importante, certo. Questo è importante. Questo è importante. Il viaggio inutile prevede il fatto che tu non devi saper fare una cosa, appunto come non sapevo guidare la moto, così con la barca a vela è stata un'illuminazione. Bisogna farlo senza strumentazione di quelle importanti, insomma. Senza GPS. Ma no, senza carte nautiche, no, avevamo deciso di sì carte nautiche. No, senza carte nautiche, adesso mi sto appassionando a questa idea e soprattutto con un natante al di sotto delle aspettative di chiunque. Cioè nel senso che se uno ti vede uscire da un porto dice: vabbè, quello non può che tornare tra un'ora, giusto? Esatto, quella cosa là. Ok, c'è però un problema legato al fatto che Corrado non vuole, ad esempio, prenotare dei posti barca nei porti, giusto? Perché prenotare... No. Pare brutto, no, è più bello, a parte che non saprei fare una scaletta di un viaggio così lungo pensando che prenoto in un porto, perché non so quanto riesco a viaggiare in un giorno, ad esempio, o a muovermi. È possibile che io faccia delle cose brevissime, tipo Ravenna-Cervia, sono già finito, sono esausto, quindi non posso fare prenotazioni, ma è anche bello non farle. Io voglio arrivare in un porto e anche se ho degli impegni, perché il viaggio non sarà fatto in un solo blog, ma in un non è un solo, giusto, non sarà tappa. Entro in un porto, leggo la barca e vado via, ritorno, prendo la barca e riparto, insomma, questo sarebbe l'idea. Quindi non posso avvertire nessuno, troverò una scusa quando arrivo in porto. Adesso poi non so come funziona, insomma, questo è evidente che non sai come funziona, Corrado. Però io direi che se c'è qualcuno all'ascolto che ha un natante, come l'hai definito tu, fuori da qualsiasi aspettativa e ha in mente di venderlo o anche di prestarlo, va bene, no? Perché poi gli vuoi dare fuoco, giusto? Sì, no, poi arrivato in Salento al natante è messo malissimo, gli devo dare fuoco, certo. Scusami, scemo io che non ci avevo pensato prima. Corrado, nel salutarti ti leggo questo messaggio di Filippo da Lucca che dice: fermatelo, s'ammazza. Grande, ma sai che lo pensano in tanti? ma tu pensa. Ciao Corrado Nuzzo, saluta Maria Di Biase. Bacioni, ciao. Ciao, grazie, buona giornata. 349-238-6666, l'ultimo messaggio, oltre a quello di Filippo che dice: fermatelo, s'ammazza. Dice: ciao Matteo, sono Gabriele del Lago di Garda. Traversata della mia vita, la migliore traversata della mia vita, poi sa quante ne ha fatte, è stata quella dal lago stesso in canoa. Avevo 16 anni. Si vede la riva opposta molto bene, ma 18 chilometri sono veramente lunghi. Meravigliosa esperienza, in mezzo al lago mi sentivo molto piccolo. Grazie a te, grazie a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie a Corrado Nuzzo che ha fatto parte del programma oggi, ma soprattutto grazie ad Andrea e alla sua storia, perché anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Adnan, sono di Cuneo, la storia di domani è la mia e parla del mio giro europeo in moto. Questa è la mia storia e io sono qui.